2. Ascolta e ripeti. Ciao Rosa. Ciao Mina. Lui e Carl. Piacere, Carl. Sono Mina. Piacere. Sei anche tu in vacanza? No, sono qui per lavorare. Sono una fotografa. Tu invece sei in vacanza? Sì. Da quanto tempo sei in Italia? Sono in Italia da 3 mesi. E tu? Sono qui da 4 settimane. Sono qui per il corso d'italiano. Sei nel corso con Rosa? Sì, siamo insieme. Tu sei una guida turistica? No, Rosa è una guida. Io sono un medico.